alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Dodicesima puntata. Dopo finito il ritratto della duchessa, quando Artemisia si ritrovò nel gran cortile ai piedi della scalinata d'onore, ebbe un bel cercare con gli occhi alteri la carrozza, o almeno la portantina con cui, per puntiglioso contratto, doveva essere presa e ricondotta a casa propria onorevolmente una virtuosa di tanto valore. Fra soldati, cavalli, cocchieri, signori e mendicanti, lo sguardo si insinuò appena e poi si ritrasse, riconoscendo soltanto Pasqualino, il servo scalcinato e sfrontato che se la gode un mondo per l'occasione che gli offerta di mischiarsi a quella folla. Eccolo che si avanza confidenziale, quasi ammicca. Non è più il garzone di tanti anni fa, è invecchiato male, macro e nero, già canuto, col costume sbrindellato del facchino di piazza, mestiere che la padrona gli permette di esercitare a tempo perduto per economia. È già carico del cavalletto, della cassetta, degli attrezzi della pittrice, per niente stupito che le manchino oggi cocchio o lettiga. Qualche sguardo non troppo curioso, non troppo insistente, segue la donna nobilmente vestita ma accostata da un servo senza livrea, e poi se ne distoglie. Così è lasciata uscire chi si tiene la prima pittrice d'Italia sulla pubblica via. Era bello scorrere sola per Roma in carrozza di Nolo e sfidare rischi e calunnie. Era avventuroso vestirsi da paggio e sforzare il passo allungandolo, ma non c'è gusto né rischi a fendere oggi questa folla di Toledo stracciata e pomposa, attenta solo agli equipaggi ricchi, ai funerali, ai lazzi dei lazzari, alle ceste delle ciambelle e dei mandorlati. Si fa poco caso delle donne adesso, si dice Artemisia, avvezza agli eloquenti disagi della bellezza, senza pensar più in là. La strada è lunga, l'esercizio manca. Pasqualino a volte segue rispettoso ai quattro passi regolamentari, a volte, dopo essersi sviato a uno spettacolo attraente, raggiunge la padrona e le parla con familiarità di eguale. Che caldo! Avete visto la faccia di quel moro? C'è carestia di pesce, il fritto vale un occhio. E Artemisia risponde, avulsa con naturalezza dalla condizione a cui si è sempre figurata di tenere e ora non se lo ricorda nemmeno. Sono come due compagni d'incontro su una strada fitta di popolo che a loro non bada. Dalla persona della donna, che a poco inconsapevolmente si avvilisce, un po' troppo chinata in avanti, sfugge quel vigor leggero, quell'elastica spinta che testimonia di come una donna giovane si controlli e goda di sé anche senza specchio mentre cammina. E poi quei suoi piccoli piedi casalinghi si orizzontano male fra sassi, buche e polvere, sempre più invischiati man mano che procedono nell'abito dell'immobilità al riparo ombroso della gonna. Presto la stanchezza fisica finisce per annebbiare e rendere distanti i colori della folla, dei ciarlatani, dei mercanti, delle carrozze che saettano nel sole, fino il passaggio rovente e fiammante del viceré a cavallo fra i suoi signori la lascia svagata, disattenta, non tanto però che non si accorga tutto a un tratto d'essere troppo diversa da quel che suole, sicché con un atto di coraggio si tira su con la vita e si mette a pensare di proposito che stasera o domani riderà con gli amici di questa passeggiata stravagante, confidando a Massimo Stanzione e al giovane Spadaro come sia piacevole in fondo camminare a piedi per Napoli, tanto fracasso e nessuno ti vede. Se non che proprio nell'atto di studiare e formulare la frase azzeccata e spiritosa, la mente si riscuote, riconoscendoci un fatto ovvio, una verità così naturale che il corpo la riceve come un colpo da stropicciarsi nella lividura. Nessuno fa attenzione a una donna di 40 anni se non sa chi è, doppia ferita. Fu tale la sorpresa, eppure chissà da quanto la portava in petto, che ansimando un pochino Artemisia si fermò e girò gli occhi intorno. vede la schiena di due frati cercatori, le trecce nere di una giovane forese in carrottella, e da quei casuali aspetti cercò di trarre qualcosa come la correzione di uno sbaglio o di una dimenticanza in cui fosse in corsa. Di oggetto in oggetto il suo sguardo si appuntava in alto e lontano, al cielo pallido di calura, alla costa lineare e nuda, ma nessuna smentita soverchiò quella terrena verità di un'inclemenza così puntuale da essere agevolmente risalita fino a una data, e si rammentò che l'anno scorso, sui primi di maggio, per l'entrata della regina d'Ungheria, aveva creduto che il nuovo abito color tanè non le si addicesse. Gli ultimi 200 passi furono così accompagnati. La duchessa verserebbe subito i 200 scudi pattuiti o li farebbe aspettare? Aggiungerebbe o no il ventaglio, l'astuccio, il ciondolo d'oro, come costumano questi grandi quando sono contenti? Porziella non ha la dote, bisogna trovare denaro. Far scrivere subito al marchese del Vasto che per la sua Diana c'è una spesa intollerabile di modelli. Stasera non viene certo nessuno, fa caldo, Massimo stanzione e a Portici con la moglie. Erano i primi pensieri, le prime difese istintive di una donna anziana e rassegnata. Non importa che saliate, Pasquale, faccio scendere Nunziatina e salutatemi Concetta. Guardava l'uomo sudato che da tanti anni conosceva, di cui non aveva da lodarsi né da lagnarsi troppo. Lo guardava, pallida, con gli occhi convalescenti e un sorriso valoroso. Si sentiva debole, stanca, sola, e avrebbe gradito che qualcuno, magari Pasquale, se ne accorgesse, se ne condolesse. Santanotte, fece l'uomo, scaricandosi del suo peso senza complimenti, e le parve con più rozzezza del solito nei modi, come se la signoria di Artemisia decadesse necessariamente in ragione dell'età cresciuta e accusata all'improvviso. Da femminetta di popolo che si sentiva, la Gentileschi ripeté «Santanotte!». Principiò a salire la scala e, coltivando la dolcezza di un pianto necessario, pensava che per un paio d'ore dovrebbe ancor reggere, e poi se lo sarebbe concesso sul cuscino nel buio. Già ne cercava il pretesto, un pretesto concreto. Non si piange perché si invecchia. Nella collana delle sue disgrazie confessabili, la figlia ingrata e poco amorosa, il padre lontano e che non si fa vivo, il marito scomparso. Ecco, il marito scomparso. Chissà perché questa vecchia ferita le pare stasera la più attuale, la più cruenta, e non sa cosa l'aspetta di sopra. In cucina, difatti, che non aveva voluto accomodarsi in sala, davanti a un lanternino fumoso di moccolaia, sedeva quieto quieto Francesco, appena arrivato da Roma, senza avvisare. La nipote, dopo quattro parole di convenevoli freddi, l'aveva lasciato lì e si era ritirata in camera secondo il suo costume, da quando aveva, controvoglia, lasciato il monastero. Nel buio del camino, dopo qualche domanda sciocca e indiscreta, si affaccendava la serva Annunziata, succeduta a Terenzia, sorniona e pettegola. Lui, da dietro il lume, levò sulla sorella che entrava gli occhi sporgenti e premurosi. Aveva letto, aspettando, un libricino devoto, ma lo ripose subito insieme agli occhiali raggiustati col refe nero, che non voleva passare da bigotto, come non avrebbe sofferto di trascurare gli esercizi della sua confraternita a Strada Giulia. Aveva ormai la faccia terrosa di un buon operaio paziente e senza ambizioni. Le mani, incerte e caute nell'ozio, avevano l'aridità della creta secca. «Mi scuserai se non ti ho avvertita, Misia», disse alzandosi con un tantino di imbarazzo, quasi fosse zoppo. «C'era un'occasione, dovevo vedere il Fanzago e non ho avuto tempo per scrivere». Di colpo, all'aspetto del fratello che ha sempre preso per sé tutte le cose ingrate e umili della famiglia, e ora tutto il conto degli anni che sono passati, risorge in memore di sconfitte la giovinezza di maestra Artemisia. L'abbraccio è tranquillo, moderato, la gioia è calma. Per nulla al mondo la Gentileschi si distaccherebbe sotto gli occhi di Francesco dal suo riserbo antico di sorella maggiore e ammirata. Quello che pareva chiedere un minuto fa a Pasquale non lo domanderà a Francesco, che l'ama e al cui sguardo la sua vita continua a essere rappresentazione, esemplare, spettacolo miracoloso. Non avrà più bisogno di piangere stanotte e da quella presenza amica la sua solitudine, più che confortata, viene consolidata e resa valida come quella della giovane che sola viveva ed era un così bel vivere e sfidar la sorte. Non più triste, ma sciolta e padrona di sé e persino impaziente e festosa, chiama Porziella, sprona la serva, chiede candele fresche, si avvia a passo franco nel buio delle stanze, rompe un bicchiere, ride. Il volto del fratello, la sua incollatura pesante e un po' infelice da faticatore sedentario, le hanno reso confidenza nell'avvenire, fede nelle proprie virtù, quelle di cui Francesco non ha mai dubitato. Di nuovo si innamora di sé, una donna forte che può cimentarsi e vincere, a cui tutto è eccezione. Si muove per la casa e i suoi gesti deliberati, allegri, fanno oscillare e abbassare le fiammelle dei candelieri accesi, danno mano ai lenzuoli puliti, alla tovaglia candida, racconta a voce vibrata gli ultimi casi di Napoli, le commissioni, le speranze, le lodi e di aver finito proprio oggi questo ritratto d'impegno per certi spagnoli assai nobili ma pitocchi. Risparmiano, figurarsi, sino chi offre il braccio e la carrozza patuiti, roba da pasquinate, o come ha potuto affliggersene mezz'ora fa. Un po' goffo e peritoso, ma con quella gentil confidenza dei tempi andati, Francesco la segue e fa l'atto di volerla aiutare, quasi a dimostrar, senza dirlo, che gli dispiace esser servito da lei, incantato e contento, ma non certo stupito per le buone notizie, egli conforta e conferma con certe parolette sensate e giulive la veridicità di un quadro senza ombre, di una vita spavalda e trionfante. E se la vita è così facile e felice, perché non si parlerebbe di Roma, la cara patria, dove non c'è dubbio che un'Artemisia è aspettata a gloria e può ritornar quando vuole. Cosa macchina il cardinal padrone? Come lo contentano questi pittori nuovi? Il Possino è sempre alla moda? Il Bernino è sempre favorito? E gli spettacoli? E il traffico? E gli amici? Chissà perché a questo punto Artemisia si riavvivava ridente con la pettinessa, quella giovanile ciocca ribelle. Francesco abbassò gli occhi sul piatto, grattò il fondo della scodella e non rispose. Privata di un appoggio e di un calore necessari alla sua allegria, la sorella si accorse che altri sguardi la fissavano al di là della tavola ed erano quelli della giovane Porzia, assai malcontenta d'essere sortita di camera, ma vigile e ragionativa nel suo silenzio ostentato, e della servente Nunziatina, ritta dietro la seggiola della padroncina, divisa al suo modo scoperto e grezzo fra curiosità, sospetto e grossa ironia. Qualcosa come la vergogna d'essersi abbandonata e sconvenientemente esaltata colse la pittrice. Sentì che aveva le guance calde, le parve di indovinare che sotto le occhiaie scavate i suoi zigomi fossero gonfi e rossi, uno spettacolo di pietà per l'impietoso occhio di una giovane. E forse anche il candido Francesco non osava alzar la fronte per tener fede all'immagine di una silenziosa Artemisia che sapeva da fanciulla così ben nascondere la fatica, la speranza, la superbia, la disperazione, talché il sangue della donna si fermò, si freddò senza portarle freschezza. Le sue gote impallidirono e presero un macilento giallore contaminato di violetto, mentre le labbra conservavano quel tanto di sorriso che ne irritava le increspature minute. Sola, poco innanzi, nel crepuscolo della giornata e della vita saggiamente riconosciuti, era nel vero, nel giusto, a questi termini. Bisognava ridursi e rimanere. Decisa, la mano salì ancora una volta la chioma, ma per frenarne e stirarne l'onda gonfia e adulatrice, non un sospiro, tradì la voce coraggiosa che s'applicò a seguitare il discorso e spengervi il ricordo troppo vivo ed eccitato di Roma, dei suoi luoghi, dei suoi personaggi, e cercava che fosse imparziale, modesto, studiandosi di dar prova di saggezza a tutti, in specie a sua figlia, che ancora una volta aveva potuto compatirla. Tacque alla fine e il mento le si inchiodò sulla gola, come le succedeva nel tempo che ognuno cominciò a giudicarla fra i pigionali di Santa Croce e di San Spirito. Ma questo poteva ricordarlo e notarlo soltanto Francesco, che aveva alzato gli occhi, pensosi, sì, ma non di quello che la sorella immaginava. Porziella si levò in piedi, ben dritta di spalle, anzi rigida, più chiusa di qualunque altra ragazza nell'intatto bustino di taglio severo. Si chinò, Si inchinò leggermente. Buonanotte, signor zio. Buonanotte, signora madre. Così le hanno insegnato le monache. È benissimo educata e c'è una sicurezza tagliente nel suo modo di congedarsi che vale una lezione per quei due che restano ai loro eterni discorsi di pittura e di gloria. Chi ha insegnato a Nunziatina questa premura ossequiosa di accendere il lume e fargli riparo con la mano, di aprire la porta, di precedere accompagnando, non Artemisia di certo, sempre sbandata fra una familiarità eccessiva e una pomposa distanza d'idea? Senza rumore, la porta si richiude dietro le due fanciulle. Bisogna maritare Porziella, fa la madre con un sorriso sperduto, attaccandosi strenuamente a quel che crede dimostrazione d'umiltà, di rinuncia, e Francesco apre finalmente la bocca e poi la richiude e poi torna ad aprirla. Da quell'istante, irragionevolmente, il cuore di Artemisia si mette a battere sordo e angosciato. «È giusto appunto», dice Francesco, «vien buona la notizia che ho da darti. È tornato Antonio». La notte sopraggiunta è silenziosa, come in campagna. Nessun Lazzaro che grida, nessun infante che si lagna, nessuna carrozza che strepiti. E neppure il mare si sente. Il mare è quieto, non c'è luna nel quadro della finestra aperta. La lampada fila nel fornello coperto di cenere, una brace male spenta scricchiola. Antonio è tornato, tornato da paesi lontani. Chi dice dalla Cina, chi dalle Indie occidentali. Si è fatto mercante ricco, ha preso stanza in un palazzo con bellissimi arredi, dicono. Si tratta alla grande, veste un po' bizzarro, ma onorevolmente, talvolta con magnificenza, ha crediti per tutto e lettere d'importanza, e ha con sé una donna un poco moretta, chi dice una principessa di laggiù, vorrebbe sposarla, che ha in corte appoggi potenti, e in quel matrimonio la spiccia di Santa Maria in Aquiro pare ci sia vizio di forma e di consenso. Manda a dire, quel che è stato, e la signora Artemisia la conosce per donna ragionevole, sa della figlia, non vuole dare in sospetti, anzi la tiene per sua. In prova offre una dote a Porziella, alla madre un regalo, ma Artemisia darà il consenso alle nuove nozze, presterà giuramenti, firmerà carte, se occorreranno viaggi a Roma si intende che li riconoscerà, sosterrà le spese. Non ti pare? Conclude Francesco, vincendo la sua timidezza solita e anche una specie di orgasmo per questa commissione stravagante che non gli piace, ma che dovrebbe piacere a una donna così fredda, così severa e forte, tale egli l'ha sempre giudicata come la sorella. Non ti pare che tutto venga a proposito? Porziella avrà una dote da duchessa, si potrà scegliere il partito migliore, ti potrai risposare, attendere a opere d'impegno senza il pensiero della casa. La notte è anche fredda, Artemisia ne sente il fiato ghiaccio e umido scorrerle sotto pelle e riportarla con una vertigine a serate squallide d'inverno in cui si può dire almeno che freddo, la mancanza di questo pretesto per rompere il silenzio con un luogo comune le sembra insopportabile. Ha la testa china e non osa sollevarla. Lisci e composti adesso, quei suoi fini capelli biondi, sottile la scriminatura che li divide, appoggia le mani al tavolo come se accingesse a far leva per alzarsi o aspettasse qualcosa, forse che Francesco le renda il disegno incominciato o le passi le brache da rattoppare. Da una vecchia abitudine a soffrire le viene questa guardinga immobilità, sebbene di soffrir troppo ancora non si accorga. Invece di parlare pensa, curiosamente sillabando, Antonio, mio marito, Antonio, stiattesi, Artemisia, stiattesi, il matrimonio spiccio. E non sa se, aprendo la bocca, le usciranno parole o, straziato miracolo, non le cadranno tutti i denti in grembo, tanto comincia ad aver cognizione di uno stravolto dolore. Conviene aspettare e fingere di riflettere. Questione di un paio di minuti, un dolore così non può durare. Invece il dolore cresce, romba. Tutto viene a proposito. uscì a dire in una pausa di allucinata smemoratezza, ripetendo le parole del fratello, che di sue non ne avrebbe saputo trovarne, e imitando persino la voce di lui. Con un grande sforzo alzò gli occhi e li tenne bene aperti. Soltanto così, lo sapeva, si domina la sorpresa del pianto. Ed è vero, seguitò vuota e disciolta da sé, come avesse già aspirato l'anima, ma con la sensazione precisa di spingersi avanti al buio per una strada strettissima. È vero, così potrà scegliere il partito migliore. Con un ultimo prodigioso sforzo abbandonò l'appoggio che le veniva dalle parole di Francesco e si slanciò a ritroso verso pensieri di un momento fa, quando aveva cominciato incautamente: bisogna maritare Porziella. Infilava le frasi a una, tirando avanti piano, come chi non vuol cedere al pericolo di cadere, anzi di stramazzare, e si distrae tenendo gli occhi su un oggetto qualunque. Bisogna maritarla bene e il partito ci sarebbe una famiglia ricca, sicura ormai che dalla gola, che sembrava chiusa, la voce riusciva a passare. Ne approfittò, la rafforzò, arrivò a usarla come uno strumento esterno di cui si può anche abusare. In un rigoglio di amaro trionfo ne abusò repentina. Una sorta di disperata disinvoltura l'occupò tutta, la dominò dai piedi alla testa, ragionò a lungo con un afflusso di parole nette, esattissime, di casa Fragame, argentieri a Chiaia, ritirati dai negozi e in procinto di comprare un titolo, assai educati, un figlio unico che è una perla. Tengono denaro e denaro vogliono, sai com'è. Ma per riguardo a Porziella, che una signora marchesa le è madrina, si contentano di 1000 scudi e la roba. Subito fatto sposo, il giovane sarà cavaliere di San Giacomo. Porziella starà da dama come padrona. La suocera è vecchia, poco può stare a morire. La roba bianca è pronta, mancano i vestiti. L'oro verrà a poco, è gente di chiesa, uno zio vescovo a Eboli, una cugina superiora delle Clarisse, quella che propone il parentado. Non par vero a Francesco che, superata quell'ostica commissione, gli si è offerto il destro di almanaccare con giudizio un piano vantaggioso per i suoi, che a lui nulla piace tanto come provvedere da padre di famiglia, sentirsi legato e necessario alla vita concreta degli altri. 500 scudi, ripete più volte, li ho io da parte, e ricomincia a recitare la lista dei suoi crediti, che sono vecchi e molti. Così tardo è a riscuotere ciò che gli è dovuto. Ripassano nei suoi conti minuziosi i lavori dell'ultimo decennio, ognuno con le sue contingenze di nomi e luoghi esattamente mentovati, nomi e luoghi che all'orecchio della sorella suonano adesso incongrui, ironici, una beffa. C'è mai stata Ripa Grande coi suoi barconi? Non è stanca Piazza del Popolo della sua polvere, delle sue vetture, dei suoi viaggiatori quotidiani? Perché la stanchezza di Artemisia è così rude a un tratto che il gomito sul tavolo, la mano sugli occhi, essa la vede oggettivamente riflessa nelle cose che hanno assistito alla sua vita difficile e fuggevole, già per 3/4 consumata. Dietro quella mano anche lei fa i suoi poveri calcoli, conti senza crediti che non richiedono precisione, e così la memoria non fosse tanto esatta, ragionamenti monotoni, e la conclusione batte lugubremente: neppure Antonio. Il marito scomparso, aveva formulato stasera per dare esca a quella malinconia di invecchiare che le era sembrata senza giustificazione e quasi disonorevole. Da quanto tempo non s'accorgeva di pensare a lui? E sul fondo dell'animo, come sulla sabbia grigia che l'onda segretamente sommuove e segna, vide le orme di quel pensiero per tanti anni costantemente serbato e scritto. Era suo marito. In chiesa le aveva dato l'anello, aveva dormito al suo fianco nella camera di Ripa Grande, la serviva umile ma sicuro di lei, era il suo devoto, le accarezzava i capelli, le scrutava la mano, non avrebbe mai spento il lume per contemplarla, e poi se n'era fuggito. Ma quell'amore, quell'adorazione assorta, era certa che durassero e gli scorressero nel sangue sino alla morte. Invece ha con sé una donna un poco moretta. Nulla dunque era stato vero. Il fedele Antonio non era mai esistito. Per quella positura di Artemisia che simula la meditazione e magari il sonno. Il discorso di Francesco si è interrotto, né egli insiste a riprenderlo. Di questa donna che gli è carissima, ha sempre temuto e rispettato distinto la fragilità, la stanchezza, la durezza, la forza, bizzarramente unite a farne un esempio di umanità unico e struggente. Non occorre dunque che ella spieghi perché si sia chetata, perché ripari gli occhi. Lui è avvezzo fin da piccolo a non permettersi di figurarsi neppure il modo delle sue ragioni. Passano i minuti, i quarti d'ora. Francesco tira fuori il suo libretto, i suoi occhiali e si mette a leggere, come ci fosse un'intesa che bisogna aspettare qualcosa pazientemente. Qualcosa che fondamenta profondissime finiscano di cedere e che la polvere della rovina si posi e scopra quel che rimane in piedi, ben poco in verità, qualche rudere, qualche mozzicone a cui non sarà più possibile affidare una struttura solida, armoniosa. Quel che per Francesco è pausa non discussa, per Artemisia è velocità vertiginosa e la mente non le basta a sbrattare, a contemplare, non si dice a disperarsi, non è ancora giunto il tempo. Nelle macerie, anche le nozze di Porziella, pretesto fragile di distrazione, effimero baluardo e scongiuro al dolore, sono sprofondate e l'animo, così pronto a sopportare, a perseverare, a prender partito, così vivo nei recuperi, non è che un arto spezzato sotto un macigno. Pure in agonia l'animo si muove con una monotona ritmica insistenza da osservarsi con quasi scientifica curiosità. Si direbbe che stia per sollevarsi, per muoversi, agire. Ricade ogni volta e il gemito del corpo a cui appartiene non lo sente nessuno. Si tolse la mano dagli occhi finalmente e li girò intorno. Veniva di tanto lontano, aveva registrato così formidabili urti e lampi che lo sguardo appariva strasognato, come se aprisse dopo il sonno. Le lacrime erano rientrate nella palpebra appesantita, illividita, e non se ne scorgeva traccia. E la sorella sorrise al fratello, caritatevolmente, come avessero lavorato a lungo, vegliato a lungo insieme per una triste ragione irrimediabile. «M'ero addormentata», spiegò. «È proprio ora di andare a letto». Posatamente cercò nell'angolo del camino due candelieri piccoli. Con un garbo meticoloso e lento ne avvicinò il lucignolo alla fiamma di quelli che ardevano sul tavolo. Li accese. In piedi, porgendone uno a Francesco e prima di avviarsi, «Ho molto da fare», disse. «E poco tempo. Non t'ho detto che il babbo mi ha chiamata. Quest'anno, per Natale, sarò in Inghilterra». Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.